due cose estreme. Da un lato non è nemmeno limitato all'area dell'euro, qui c'è un problema di incertezza finanziaria globale dove gli Stati Uniti hanno forse il posto numero uno e costituiscono il problema principale, e in un ambiente di grandissima incertezza come questo, dove gli Stati Uniti rischiano di essere in default loro e creare un disastro, tra l'altro loro lo possono anche fare perché sono molto autosufficienti, creando disastro solo per gli altri, no, non solo per gli altri, ma insomma… In un ambiente del genere è chiaro che tutto è possibile, qualunque operazione, diciamo, di panico o semplicemente di speculazione azzardata diventa, diciamo, diventa spiegabile. Quindi questo da un lato, tutto il mondo, come dire, è paese da questo punto di vista. Teniamo presente la situazione dell'Inghilterra, teniamo presente che la Francia non sta provvedendo quello che dovrebbe provvedere per arrivare ad essere sostenibile, quindi ecco, dall'altra l'Italia è in una situazione in cui abbiamo dovuto fare una manovra molto ingente, di una dimensione veramente considerevole, però non basta approvare la manovra con un colpo di bacchetta magica in una settimana, con la fiducia e l'opposizione che dice è tutta sbagliata. Qui il problema è se c'è una situazione politica in grado di gestire nei prossimi anni un periodo difficilissimo in cui occorre consenso, occorrono provvedimenti radicali, e questa è una situazione politica che noi non abbiamo assolutamente. Siamo in una situazione politica assolutamente indecente, con una serie di, diciamo, di ministri in pericolo, non sostituiti, con una reputazione orrenda da parte del governo in carica, con una reputazione scarsissima da parte dell'opposizione, cioè la situazione politica italiana non è tale da garantire il mercato che ci sia una politica economica in grado di governare il paese.